Siamo qui all'altezza di Piazza Tempione, di Corso Tempione a Montesacro. Da questa mattina intorno alle 9:30 c'era un presidio colorato che blocca alternativamente la strada qui, l'incrocio che porta dal centro verso la piazza. Con manifesti, con volantini, con striscioni stiamo manifestando il nostro dissenso verso la presenza di Bush qui in questa città. E se vuoi qualche dato sulla quantità, hanno una quarantina di persone, buona parte aderenti al Roma Nord-Est Social Forum che sta manifestando e che andranno avanti almeno per un'altra mezz'oretta.